Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Normalmente, quando viaggio e osservo i miei compagni, ho in grande spitto, per dirla con espressione dantesca, le persone che usano togliersi le scarpe e appoggiare i piedi sul sedile di fronte. Lo trovo un gesto terrificante, primo perché il piede sudaticcio appoggiato sul sedile, dove magari in un altro giorno, io che viaggio molto, potrei sedermi io, trovo che sia un'operazione totalmente schifosa. Secondo, nessuno si pone il problema che i propri vicini di scompartimento, che non sono familiari, non sono mogli, non sono mariti, non sono parenti, che possono comunque considerare parte dei loro obblighi familiari ascoltare, annusare la puzza dei piedi del loro congiunto, in realtà non sono presenti, e quindi a noi estranei bisogna saggiare fino in fondo quale sia la chimica della sudorazione e della bromidrosi di una persona che ci è totalmente sconosciuta. Però quella volta ho fatto un'eccezione. La leggiadra fanciulla che si era tolta le scarpette, delle ballerine innocenti, io sono dell'idea che la ballerina abbia un limite invalicabile, che è quello del menarca. Quando la donna diventa donna deve smettere di mettersi le ballerine roba da bambine. Ora che questa non è proprio una ragazzina, avrà qualcosa, quell'età indefinibile che può andare dai 30 ai lambire i 40, ma forse anche oltre, forse anche meno, non si sa. Era talmente realizzata, solare direbbe qualcuno con un'espressione che io aborrisco, da non farmi nemmeno avere un attimo di fastidio per il fatto che lei avesse tolto le sue scarpucce, incrociato le sue gambucce e i suoi deliziosi piedini erano appoggiati in postura yoga perfetta sulle sue cosce. Era così assorta e così vicina e prossima a raggiungere il nirvana che non trovai occasione migliore per interrompere il flusso mistico e interrogarlo. Ma ancora un rendiconto della tua vita personale, sentimentale con i tuoi genitori? No, molto poco. Ma ti fanno domande, lo fai? Dici, sto sola, penso, medito o racconti? Racconto il giusto, comunque dipende molto se sono in vena o no di raccontare, non è una cosa proprio così. Quelle mezze verità che sono meglio delle menzogne. Ah, dici? Non lo so, sono sempre così, uno dice le mezze verità. No, diciamo che se racconto la verità, insomma, finché mi va di espormi. Fino ai livelli di crudezza accettabili per una madre. Benissimo, mi piace crudezza, sì. Minaccia mai il crepacuore? Mi ha minacciato il crepacuore tua madre? No, purtroppo no con me, perché non ho mai dato troppi pensieri. Ma quindi sei la figlia ideale? Ma dipende. Unica? Figlia unica? No, ho due sorelle più grandi. Ah, le tre sorelle, vedi. Tu eri la più piccola di tre sorelle? Io ero la più piccola di tre sorelle. Quindi hai vissuto nella loro ombra? In realtà no, perché sono molto più grandi di me, quindi ho vissuto quasi da figlia unica per certi aspetti. Quanti anni ci sono, fratello e tua sorella? Con una 14 e con una 10. Ah, proprio. Sei la figlia dell'ultimo errore. Sì, esattamente, peraltro non aspettavano me ma un maschio, quindi è stata una tragedia questa all'inizio. Della finta menopausa, quasi c'è questa leggenda in famiglia per cui una volta uscita dalla sala parto l'ostetrica mio padre avrebbe detto è maschio come le altre due, e mio padre per un attimo è rimasto disorientato e poi ha capito. Era una battuta? Sì, però era un po' scosso, perché ancora non esistevano, diciamo, le ecografie, niente a quel tempo. No, probabilmente sì, al buio. Però non era un po' non volevano saperlo. Esatto, non volevano saperlo. Però insomma sono sufficientemente giovane perché, per pensare che esistessero. Sì, ma che se ne facciano di un maschio con due femmine già grandi? Per il piacere di avere un maschio? Forse sì. Chissà che daranno in più i figli maschi. Poi vengo da una famiglia, siamo tutti maschi. Eravamo tutti maschi. Non perché abbiano cambiato sesso i fratelli, non li vedo più, io proprio ho radicalizzato. Ah, quindi neanche contatti sporadici? No, zero, no, zero. Meglio niente. No, perché c'è sempre questa sorta di velenoso senso di colpa, anche soltanto sentire al telefono. Ai, così. E senso di colpa, però quindi... Le famiglie a questo servono, per instillarti sensi di colpa per tutta la vita. Se le ferite non sono sanate, però... No, ma che fede, non esiste, la famiglia è questa, è un vampiro totale. C'era sempre un genitore, un fratello, ti dirà, ma tu non hai pensato, non pensi. A un certo punto dovrebbe far finta che non c'è più la famiglia. Io ho smesso con i sensi di colpa, basta. Vabbè, quanto ti è costato di psichiatra? Beh, allora, in termini di tempo, un investimento, devo dire, quasi decennale è stato. Quindi, no, insomma, però ho 10 anni di analisi avrei fatto. Però l'investimento è stato ben speso, perché ora il senso di colpa proprio non mi attraversa più. Però il salto di qualità c'è stato con la meditazione. Vabbè, tecniche orientali, cosa sei? Yoga, Sahaja Yoga, è una tecnica di meditazione molto, molto bella, molto spirituale, che ti porta oltre. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. Mi spieghi che vuol dire? Tutti dicono finalmente ho scoperto la cos'è la consapevolezza? La consapevolezza senza pensieri. Ma che vuol dire? Cioè non pensare? Non è meglio ubriacarsi, scusa? No, è uno stato... No, perché quando ti ubriachi non sei cosciente, non è una consapevolezza quella. È un'ubriacatura cosciente. È un'ubriacatura, beh, mi piace, sì, potrebbe essere un'ubriacatura cosciente, per cui tu sei consapevole, sei lucido, però non hai quei pensieri che ti devastano. E che quanto ti... tempo costa questo stato di beatitudine? Questo stato di beatitudine in realtà non costa nulla, nel senso di che... Di tempo, no? Per arrivarci ci vorrà un lungo esercizio. No, dipende dall'apertura, dalla disponibilità, da quanto hai voglia di investire, ma non c'è un... Ma io ho amiche che hanno tanta apertura e tanta disponibilità e campano lo stesso, senza meditare. No, ma infatti, cioè, si può vivere anche senza meditare, bisogna vedere come e se ti cambia la qualità della vita quando scopri... Quindi vabbè, tu hai una dimensione spirituale del tuo vivere. Anche, sì. Vabbè, allora quindi che altre ferite vuoi? Sei lì nella contemplazione dell'estasi, cioè la vicinanza con l'estasi, perché se c'avevi l'estasi non stavi qui in treno a perdere tempo. Bello il treno, però mi piace. Sì, sì, lo immagino, sì. Poi puoi meditare, perché se non trovi uno vicino che ti rompe le scatole, è puoi vero. Pensare quanto vuoi. No, parlami delle altre ferite, visto che il tema l'abbiamo trovato. Hai parlato di quella della famiglia, che in fondo è quella più indifferente. Che ne so, l'elenco delle ferite, come fosse un reduce da una campagna di guerra, comincia a farti vedere, vedi qua un sotto, veterano, una sciabolata, qua un colpo di mitraglia, qua una scheggia. Io c'avevo un nonno che ha fatto 3 guerre, 4 guerre, guerre d'Africa, guerra mondiale, tutto. E sta sempre a farci da piccolo, cioè delle ferite, che poi non erano cazzo ferite, erano dei graffietti. Il nonno ha una ferita in testa, un'altra qua, piccole dei cose, dei peticelli, sì, però era mutilati e invalidi di guerra, faceva la sfilata con le medaglie, ecco. Quindi ho sempre l'idea che la guerra deve dar ferite, anche no. La vita. La vita, sì, no, però io ho delle cicatrici vere, nel senso che quando ero piccola ero veramente una vandala. Autolesionista? No, ero una vandala, giravo molto in bicicletta, a volte anche scalza, per cui mi ruzzolavo parecchio, cadevo spesso. Quindi sei deturpata nel... Sì, sono deturpata proprio. Dove? Sulle ginocchia, per esempio. Con le ginocchia? Ti faccio vedere. Non mi vergogno, quindi le porto comunque anche scoperte. Ho delle cicatrici vere. Beh, sulle non si ginocchia. Vede nulla. No, ah, beh, ci sì, sono, ci sono. Okay. E maschera, ci metti un po' di fare. Ma no, figurati, mia zia mi chiamava San Lazzaro quando mi vedeva, perché ero sempre... Come maschiacci. Sì. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. C'è una fase di mortificazione, è la fase genuflessa, e il porto le cicatrici sulle ginocchia, è una fase di elevazione, che è la fase della meditazione buddista, che pian piano no, ti sarà buddista tu... però no. non è buddista, è un altro tipo di meditazione, si chiama Sahaja Yoga, che vuol dire yoga spontaneo. Te lo inventi da te, può essere quello che vuoi. Beh, in effetti può essere quello che vuoi, sì, però insomma non è buddismo. È auto yoga? No, si segue una pratica, non è. Però non c'è legge. Te lo inventi. No, ci sono delle. Sì, ci sono delle regole, degli accorgimenti, dei suggerimenti. Però anche. Non porta da nessuna parte, ecco. Non apre le porte di nessuna dimensione superiore. Beh, apre le porte della tua consapevolezza, della tua dimensione. Un giorno devo capire meglio questa cosa. E devi venire a praticare, allora. Devi venire a fare un'esperienza. Ma ci vuole un sacco di tempo. Ma che no, non ci vuole tanto tempo. Quanto ci vuole? Guarda, 10 minuti si chiama la prima esperienza, la realizzazione del sé. Ci vogliono 10 minuti. Poi quanto costa? No, non costa nulla, è gratuito. E chi lo fa, che come vive? Si fa nei centri, chi lo fa altro, cioè nel senso. Ma di che vive? Vive del proprio lavoro, che non è. Che è fare quello a te queste cose? No, è fare, non so, l'impiegato, il giornalista. E quindi come uno fa volontariato, va a lavare i piedi ai barboni? Sì, esatto. Ci sono dei centri dove si fanno attività di Sahaja Yoga. Ma si trombano le adepte, qual è il vantaggio? Ma no! E cosa ci guadagnano? Far star bene le persone è una cosa anche molto bella, che può far bene e far piacere, anche se non c'è. Ma uno fa il medico, allora scusa, che deve fare il saggio? No, dipende, perché se uno non ha fatto il medico. Quindi sono persone buone. Sono persone molto altruiste. Belle. Sì, anche esistono. Ti giuro che esistono. Cioè, uno, che ne so, fa il meccanico, si lava le mani, si toglie la tuta e va a fare Sahaja Yoga. Come quelle che porta la minestrina la sera alla stazione. Ma non è stupendo? Sì, boh. Non c'è qualcosa che non mi quadra. Lo so, perché devi venire, devi provare, perché c'è sempre un pregiudizio. Ma poi di vi abbracciate, no, vi commuovete, no. Queste cose no, qua. No, non ci abbracciamo. La commozione ma può arrivare. Ma vi scambiate un segno di pace, qualcosa? No. Nulla? No, cioè non c'è un ti invitano a cena fisico. Dopo. Ma se uno vuole poi può anche andare a cena, però ecco, non c'è questo aspetto promiscuo, non c'è. Hanno bisogno di relazioni, qualcuno con cui parlare, almeno dopo che ti hanno fatto lo yoga gli dà un po' d'attenzione. Ma non è detto. E se tu ti neghi ci rimangono male. Ma no. È un ricatto, come io ti ho dato l'illuminazione. No. No, ti assicuro di no. Lo so tu dove mi vuoi portare, però non c'è questo aspetto. Non per denaro, non per sesso, quindi non si capisce cosa fa. Per il piacere di stare bene. Allora sono dei di santi. Dare. Beh, diciamo che non sono dei santi assolutamente, però c'è il, come dire, il desiderio di diffondere un senso di benessere, di consapevolezza che faccia fare anche magari un salto di qualità nel piccolo per diventare poi. Ma loro tutto questo fanno? Diventa una setta? Cosa diventa? No, siete degli adepti, avete dei segni di riconoscimento? No, non abbiamo segni di riconoscimento. Una tuta o un distintivo? No. Una parola d'ordine? No, nulla tu, di tutto. Se ne vedi ciò. Un altro in treno, come lo riconosci? No, non lo riconosco, cioè non è che lo. Ma c'è un segno distintivo? Niente. No, non una c'è. Parola, dai, una cosa c'è, dai. Ti giuro che non. Quando c'è. Vi salutate cosa dite? Ciao, arrivederci. No. Ma prima della pratica. Alla prossima. Prima della pratica, no, no, questa cosa non la fate. Ci sono dei mantra, vedi, sì. E qual è però il mantra? Ce ne sono diversi. Dimmene uno. Uno, veramente vuoi sì, un mantra? Certo, sì. No, capire. Che ne so, ti posso fare il mantra Shri Ganesha? Fa Shri Ganesha. Shri Ganesha, sì. È che diciamo riguarda il primo chakra, soprattutto. E no? Dove sta il primo chakra? Il Muladhara, il chakra dell'innocenza. E dov'è? L'osso sacro. C'è dietro, sotto al. Tanto innocente non è, scusa, proprio vicino. Però si proprio chiama, vicino al. Pensa, si chiama osso sacro proprio dall'antichità e ci sarà un motivo. Sì, c'era una battuta quando eravamo a scuola che assiste alle messe. Però. No, questo si diceva, sai, no? A ragazzaccio. Vabbè, allora il mantra fa così. Om Tvameva Saksha Om Shri Ganesha Saksha. Va bene, così. Io faccio. Va bene, il mio era più figo però. Facciamolo insieme. E io so fare poi solo. Fa Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirvana. Che vuol dire? Devi Namonama. Vuol dire, cioè sì, come ma è un dire, indù quello che vi fa queste cose? No, che ne italiani, no, è in sanscrito il mantra. Ma che ne sanno loro, gliel'ha raccontato, hanno studiato sanscrito. Hanno studiato questo tipo ma di ma a scuola radio elettra, scusa, dove si studia il sanscrito? Solo il mantra sanno. Vabbè, no, sono. Adoro. No, il sanscrito si studia, non è che si studia il sanscrito, si studiano questi mantra. Si studia, mantra. Uno va e studia. No, sì, però dico nello specifico di solo di il mantra, questa. Sai. È come dire, sono italiano, sono solo il Padre Nostro. Vabbè, ma perché servono per aiutano, sono come degli esercizi aiutano la persona, la concentrazione, che tutto aiutano... il suo immaginario è scolpito nel sanscrito, e quindi ma per te non ha nessun senso. No, il senso invece per te ha più senso dire sopra la campa, la paca campa, queste cose qua. Sopra la panca, la campa, sopra la panca, la campa. Questo avrebbe più senso. Dillo un po'. No, non sono capace, infatti sono l'antitesi di ogni illuminazione, questo lo so. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Allora, il discorso è questo, che anche se nel nostro immaginario non c'è, no, il sanscrito, e siamo distanti magari dalla cultura indiana. Certo. Se non nascevamo in India. Però i mantra aiutano molto sul piano della spiritualità, della concentrazione. Ah, perché non dici rosario, scusa. Perché il primo mistero glorioso si contempla. Ma no, ma è diverso, ma è anche proprio il suono, la musicalità del mantra che ti aiuta a entrare in connessione in uno stato di spiritualità. Vabbè, una volta che ti fanno sta vibrazione e dici il mantra, finisce. Come vi vestite? Ti vestite? Come ti vesti? Ma no, mi vesto normalmente. Beh, qualche accenno indiano. Casual, no, metterai qualche tutina arancione, cose, una fascia nei capelli. No, nulla. Bruciate gli incensi. Non ho questa esigenza. Incensi, sì. L'incenso c'è, ma vedi, ci può essere l'incenso. Bastoncino di incenso. Dai, che stai trovando degli elementi. No, se no non riesco, non mi allucino la scena. L'incensino, no, lo accendo. L'incenso c'è. Luce bassa, naturalmente. No, la luce invece no, deve essere neon. Una bella luce. Col neon. Accogliente, il neon dipende, insomma, comunque non le luci soffuse, no. Luce, piena luce. Piena luce. Di giorno, di sera. Sempre. Quando si cade. Può fare anche in macchina. E questi hanno la mazza a fare, tutto il giorno sono disponibili. No, allora si fa il gruppo, cioè di solito ci sono dei corsi il pomeriggio o anche la sera. Il gruppo da chi è composto? Da persone miste. E come vi siete conosciuti? Questi del gruppo, cioè un per gruppo caso. Facebook, com'è? Come si chiama? Ci sono anche. E se io volessi entrare in un gruppo, dove lo trovo un gruppo? Su Facebook lo trovi. Gruppo Facebook. Lo puoi trovare. Come quelli avventure nel mondo che però io devono trovare amici. Ti consiglio di venire invece a meditare il giovedì a Roma. Giovedì? Perché a Roma che c'è il giovedì? Il giovedì a Roma alle 21 si medita a San Lorenzo. Dentro la chiesa? No, in un luogo assolutamente laico e dove. Ma medito poi. Poi vedi come stai. Cioè mi siedo e uno mi dice adesso medita. Mi darà delle direttive. Ti dà delle indicazioni, tipo? Certo. E tipo adesso rivedi te fanciullo che esci dall'acqua, queste cose qua. Ma no, uno si mette seduto, seduto respira o sulla sedia o a terra. Bisogna stare molto comodi. Ma con una posizione yoga, queste cose qua. Ma molto comodi, anche seduto però sulla sedia. Io steso con sto più comodo. No, disteso no, bisogna stare o seduti o sulla sedia o per terra. Bisogna e poi in gambe incrociate fa malissimo. Se non ce la fai, infatti sì, stare seduto. L'importante è avere comunque le piante dei piedi che stanno bene aderenti. Senza scarpe? Meglio sì, senza scarpe. Beh, uno si lava i piedi prima, se ne puzza i piedi. Cioè, e tutti arrivano lì dalla sera. Questo chiaramente poi c'è è un come po' di dire, puzza di piedi, discrezione un pochino personale. C'è. Un po' d'odore di piedi la senti, dai. Leva con i calzini, pensa a te, arrivano quelli. Ma in realtà mi è capitato più di sentire proprio odore, anche un po' di sudore di gente. Quindi sai, il piede passa in secondo piano quando c'è tutto un mondo. C'è un po' mondo. Di puzza. Come fai? Volte sì, un po' di umano. E con quel sudore umano come fai te? Infatti io poi mi trovo degli spazi dove non mi arrivi. A me già darebbe fastidio. Puzza. Vado in palestra, infatti... voglio sentire puzza di sudato. Infatti l'ultima volta che mi è capitato e sentivo un odore che non mi piaceva ho cambiato posto. Quali rinunce nella tua vita personale implica il seguire questo rituale? Per me nessuna, nel beh, senso cosa che ti hanno ho... chiesto? Dei non dei mangiar carne, ad esempio? No, non mi hanno chiesto nulla, non ti chiedono nulla. Lo so che tu. I veri paraculi non chiedono niente, ti prendono tutto. No, però non hanno chiesto nulla, non chiedono soldi e non mi hanno chiesto nulla. Né... Non gli hai mai dato una lira a te? Zero, niente. Beh, ti posseggono già come persona, perché se ti chiama il maestro la notte a mezzanotte, ma io non adepta, rispondo, ma no. Tu sei pronta a qualunque cosa, pensa così disinteressato da occuparsi del tuo bene, scusa, non so come siamo finiti qui dalle ferite, guarda, vabbè, comunque te la sanate le ferite il maestro. Ma non è il maestro che te le sana, vabbè, è la meditazione, però che passa attraverso è l'esperienza, il maestro. Vabbè, lui avrà una sorta di spada di fuoco con la quale ti imporrà la sua volontà, no? No, guarda Gianluca, non ti impone niente, nessuno, ti giuro. È proprio... Vabbè, ho scoperto che esiste al mondo gente buona. Il tuo maestro di mantra ti salva l'anima, ti ha sanato tutte le ferite, non ti ha mai chiesto una lira, non ti ha chiesto commercio sessuale. Zero, niente proprio. Si accontenta di stare lì e farti respirare. Vuoi venire a provare? Vuoi provare? Ma no, me ne frega, ma c'ho un sacco di cose da fare. Poi, nei maestri, per principio, non lo prenderei sul serio. Non mi convince nulla di quello che dici. Scusami, cara, mi dispiace. Soprattutto sulla figura di questo mistico santone disinteressato. Dovrò saperne di più. Ma la prossima volta, che se vorrà il cielo e vorranno le stelle, ci rincontreremo su questo treno. Va bene. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Non ho mai visto un essere umano così a disagio seduto in una poltroncina di un treno, anche se in fondo era una classe molto comoda. Non erano quei treni stipati, regionali, era un bel treno con un bel sedile, nemmeno troppo affollato. Perché questa persona sta seduta come se avesse i carboni ardenti sotto? Perché si gira, si rigira, si rialza, non riesce a stendere le gambe, piega, riapre il tavolino, guarda fuori, si alza, apre, chiude le luci, l'aria condizionata, protesta. Perché? Perché naturalmente è un viaggiatore obbligato. Qualcuno lo obbliga a viaggiare in treno. Lui magari preferirebbe fare quel tratto di strada in maniera diversa. E sono curioso e voglio saperne di più. Lei viaggia tanto, ma non viaggia in treno, immagino, solitamente. Ma io veramente viaggio veramente poco in treno, io odio il treno fondamentalmente, se devo dire la verità. È un fatto raro trovarla in treno, è rarissimo. Esatto, è stata colpa di mia moglie, io non ci volevo neanche venire, è stata lei che mi ha detto ti porto io a fare una gita, te seguimi e dopo sai come sono le donne, vai a capire. No, infatti bisogna sempre dargli ragione, per prima che perdere tempo a capire il perché, per come e per quando. Meglio assecondare, praticamente. Vabbè, che normalmente come viaggia lei? Io ho una moto automobile, dopo chiaramente il mestiere faccio l'autista, però in genere nel tempo libero, anche per necessità, io uso l'automobile. Autista di cosa? Di mezzi pesanti? Sì, guido l'autocarro. Ah, quindi un camion è come averci una casa sempre dietro alla fine. No. Esatto, si dorme a volte fuori, si fanno gli orari un po' sballati, però insomma questo è il mestiere. Però si dorme pure nel camion, mi pare. Sì, si dorme, abbiamo la cuccetta dietro la testa. È comoda? Abbastanza, sì, non ci si può lamentare. Poi il camion tra l'altro è anche ben insonorizzato e con i camion moderni diciamo sono bei comodi, si dorme bene, sì. Però non c'è il bagno no, mi pare. No, il bagno no, però usiamo degli stratagemmi, tipo la bottiglia o... ma non l'hanno progettati dei camion con la toilette, come i caravan, no? Come un camper? Bella domanda, io non ne ho mai visti, non lo so, sinceramente non lo so. Ma comunque, quello serve per schiacciare un pisolino e basta, per una pausa? No, anche per la notte, noi a volte si ferma, per esempio ci si ferma alle 5 del pomeriggio se è finito le ore di guida o le ore di impegno e magari fino alle 5 o 6 del mattino del giorno dopo non si parte. Ci sta lì, quindi è la nostra mini casa, si tira la tenda sul davanti, sul parabrezza e diventa un mini micro appartamento. E che fate quando siete lì? C'è chi ha il televisore, c'è chi si porta, adesso abbiamo il tablet, magari si porta Facebook, abbiamo Skype, si può comunicare con la famiglia, insomma è un po' meglio di una volta. Dopo in genere parcheggiamo l'autocarro in prossimità di un autogrill, piuttosto cerchiamo sempre comunque di metterci vicino, quando è possibile, vicino a qualcosa che ci possa dare la possibilità anche di un minimo di svago, ecco. Ah beh, ecco, è così, lì magari poi andate, vi fate la doccia, vi lavate, andate in bagno. Esatto, poi c'è la doccia, esatto. Lei cosa fa? Nei momenti liberi cosa fai? Ma io nei momenti liberi a volte cazzeggio, altre volte invece magari mi metto, scrivo, compongo. Compone cosa? Musica? Io sono uno scrittore e un cantautore, compongo canzoni, scrivo canzoni, sì. Ah, le canzoni sono scritte, pensate e ispirate dalla vita nel camion? No, in genere no, si tratta di storie immaginarie con donne impossibili o magari... Sì, adesso dice così perché pensa che la senta sua moglie. Esatto, sì, esatto. Allora diciamo sono storie immaginarie con donne impossibili. Esatto, sì, no, però sì, sono... E dove si trovano queste donne impossibili lungo il viaggio? lungo viaggio no, non glielo posso dire, diciamo che stanno nell'universo della mia immaginazione. Vabbè, restiamo nell'ambito dell'immaginazione. Io penso un viaggiatore in un camion dove può immaginare di trovare delle donne impossibili. Ah beh, ma sicuramente non col camion, non nella vita d'autista, si tratta di storie che comunque vivono nel tempo extra lavoro, se no tutte palle. Me ne racconti una così capisco il contesto, una storia impossibile descritta in una sua canzone. Non so, per esempio, io ho avuto già da sentire, è stata una fortuna, Donna del Buio, per esempio, io ho immaginato di trovarmi con una persona che amavo la follia, la quale è stata artefice nei miei confronti di un tradimento a parte fisico, proprio un tradimento nell'animo, un tradimento profondo. Vabbè, beh, diciamo tutti gli amori che ci ricordiamo sono amori finiti con dei tradimenti, se no non ce li ricorderemo. Chi se li ricorda? Beh, insomma, dai. Così. A volte anche no, beh, comunque sì. Ma insomma, gli amori a lieto fine non esistono, o sono gli amori che uno sta vivendo, e allora quelli non se li ricorda perché li vive. Se uno ricorda un amore, vuol dire che è un amore passato. L'amore passato può finire per la morte del partner, la fine dell'amore, il tradimento che fa finire l'amore, o altre cause, che sono sempre però delle scuse per raccontare, edulcorare, ammanzire, abbellire il fatto che qualcuno ti tradisce. Ok. No, non lo so, è una domanda dall'esperienza del poeta e compositore. No, la mia esperienza sinceramente, guardi, io le dico la verità, a parte qualche storiella da ragazzo, la mia personale vicenda, a parte qualche storiella da ragazzo, io ho 19 anni, ho conosciuto mia moglie. E da allora è l'unica donna della storia. Esatto, fidanzata mia moglie, è tuttora, adesso siamo sposati ormai da 19 anni, ed è tuttora l'unica donna della mia vita. E quindi gli amori se li può solo immaginare, chissà come sono. Esatto. Ed è a volte anche bello e travolgente, e anche un po' sconvolgente vivere queste seconde realtà, ecco, chiamiamole così. Ma viverlo e immaginarle, voleva dire. Viverle, cioè, vivere, ma allora, io penso che sia un po' degli artisti. Quando quando si compone, la mente va in una dimensione tale dove tu. Di fatto il corpo no, ma la mente vive quelle emozioni, le vive sul serio. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. E quindi però lei dovrebbe in teoria chiedere a sua moglie scusa ogni volta che compone una canzone, dice: cara, scusa, ho composto questa canzone d'amore in cui io mi strangroppavo 50 signorine che trovavo per strada, però sai, è stato un trasporto onirico talmente forte esatto. Che mi sento di averti tradito, è così? Sì, vabbè, dai, sintetizziamo dicendo così, ma non è proprio così, comunque sì, va bene. No, no, per dire, no, il trasporto poetico è talmente profondo, talmente impregnante, talmente sensualmente coinvolgente che comporre una canzone d'amore è come consumare un atto d'amore, la stessa cosa. Quasi, non proprio, ma quasi. Beh, che ne sa, lei non lo fa, quindi penso che si avvicina. Esatto. E la donna nel buio, com'è la donna nel buio? Qual è la sintesi della donna nel buio? La donna nel buio è una donna bellissima. Che ma tanto anche sarà brutta, scusa, tanto sarà sì, brutta. No, d'accordo, nel buio. Okay, l'ho chiesto con me, potevo anche. Okay, no, ma nel buio tanto è tutto nero, non vede niente. Va tastone. È lo stato d'animo, quando si trova uno a non vedere la soluzione, no? È, diciamo, è buio. Ah, un buio dell'anima, sì, un buio interiore. Esatto, è proprio una metafora. Ah, ecco, non avevo capito. No, poteva scrivere donna nel buio, ma sarebbe stato sbagliato. Quindi una donna di cui in quel mentre mi sono profondamente innamorato, è una donna con cui ho vissuto una passione folle che è durata comunque poco. Fino a che non ha acceso la luce? No. Esatto. No, ma la luce esatto. È il senso metaforico, che ha capito veramente la natura di questa donna. Sì, avevo colto. E quindi mi sono trovato poi con questa donna che invece ha fatto quest'atto che chissà per quale motivo, ma io immagino comunque che sia stato dovuto a qualcosa di errato che avevo fatto io, secondo me. Ah, una vendetta femminile. Ti tradisco, così impari. Sì, secondo me sì. Lo fanno anche gli uomini. Sì, certo. La vendetta amorosa è uno degli dei pochi strumenti che abbiamo in mano che, senza ricorrere all'omicidio per vendicarsi una persona che ci fa soffrire, non c'è altro. Sì, no, è vero, in effetti. allora niente, oddio, non ci si dovrebbe arrivare, perché se una storia no. è finita è puerile, però Sì, sono d'accordo, però può essere, può anche essere successo così. In effetti io avvertivo, cioè adesso magari le sembro anche un pazzo, no comunque, cioè, avvertivo che c'era anche da parte sua questa sofferenza, cioè c'è stata la sofferenza da parte mia, perché comunque ho scoperto eccetera, però c'è stata una sofferenza anche sua, era due anime gemelle che per errore hanno dovuto dividersi in modo apparente. Lei dice: ti ho tradito, ma mi ha fatto molto male. Ecco, sì, ecco, esatto. Che dà anche problemi poi di autostima, perché uno poi si fa delle domande, però. Sì. Ok, se non sono bravo in psicanalisi, però poi. No, anche... cioè, uno può pensare: perché ti ha fatto male? Io non ti ho fatto male. Uno pensa anche questo. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Questo tradimento non ha sollevato la persona dal vincolo amoroso e quindi si è tradito, ma ha fatto più male a lei che a chi doveva subire il tradimento, probabilmente. Ma probabilmente, a me di sicuro ne ha fatto tanto. Ma non sarebbe capace a una sorta di perdono in nome dell'amore, che in fondo può ricominciare ogni volta, no? Ma si può dirlo, dovrei aspettare la prossima, il proseguo della canzone, non lo so se ci sarà quella lì, morta lì, non lo so, magari può darsi, cioè non c'è una chiave, diciamo, come nei film, che poi l'eroe alla fine non si capisce bene se muore o se rimane in vita, così uno può fare il sequel. È una canzone che non ammette sequel, questa. Ma è, no, anche perché il finale dice: sai che non nascono le rose d'inverno, sai che non credo più nell'amore eterno. Cioè, di fatto io, per me, lì si crea una barriera tale dove non è più possibile un amore, cioè l'amore era quello lì, quindi da lì in avanti non ci potrebbe comunque più essere altro, ma nemmeno con lei, perché è talmente grossa la ferita, talmente grande la ferita, che non vedo, al momento lì non vedo spazio per altro, ecco. Sì, vabbè, lo pensano tutti, quando sono tradito ognuno pensa, basta, non mi rialzerò mai più, ma più nella vita, ma passano un paio di settimane e uno è pronto a ritradire nuovamente da qualcun altro. Esatto. Lei poi questa canzone la diffonde tramite i vostri sistemi interni di comunicazione fra camionisti, i suoi colleghi la conoscono? Ma sinceramente no, io l'ho messa in rete tipo 2 anni fa e sinceramente con poca fortuna, perché la pubblicità non riesce a fargliela, nonostante sia, io credo, veramente un bel pezzo. Tra l'altro gira in terzina tutto il tempo, finisce in 4, che è una cosa un po' particolare anche proprio tecnicamente, però è anche proprio un bel pezzo, carico di pathos. Però è difficile. Hai su anche la musica e parole, composto proprio. Io ho scritto musica, parole, quindi la linea melodica, gli accordi di base della canzone, potrei cantargliela con la chitarra e le parole. Dopo l'arrangiamento è stato fatto da un mio caro amico che è un compositore, si chiama Iuro Bianchini. Lui ha pensato all'arrangiamento dandogli un po' quel taglio anni 70 che a me piace tanto. Però le rimane questo cruccio, che questa canzone non ha avuto la sua diffusione, non è entrata nei circuiti. Per forza di cose sì, perché comunque, ripeto, il pezzo è bello. Adesso sto lavorando in CD con tanti altri pezzi scritti da me, insomma. Però sarà difficilissimo, andrò a rompere le scatole. Quando sarà pronto il CD andrò a rompere le scatole al mondo, perché ci credo moltissimo nei miei pezzi. Ci credo moltissimo. Vabbè, farla ascoltare in un treno potrebbe essere un'idea, un escamotage. Farla girare perché, un po'. Perché no? Se ci fosse qualcuno all'ascolto, magari potrebbe piacere, chi lo sa. Ma di solito c'è qualcuno che ascolta quando parliamo nel treno, perché lei ne aveva la percezione. Nella sua reticenza nel raccontare le sue storie, quindi evidentemente, come hanno ascoltato fino adesso lei che raccontava la sua ispirazione, ascolteranno lei che canterà la sua canzone. Ok, molte grazie, va bene. Adesso mandiamo la canzone, va bene. Ok, a presto, grazie. buon viaggio. A lei. Il treno va. Oggi finalmente, fra le tante audiolettere che mi arrivano, fra le tante richieste disperate, fra i tanti consigli che mi vengono estirpati, che porteranno le persone che me l'hanno chiesti verso una china inarrestabile fino alla distruzione, per richiedere consigli a me, è qualcosa di veramente masochistico, mi arriva una lettera che mi fa sorridere. mi fa sorridere per il paradosso che contiene in sé. È una sorta di conferma della più antica e biblica delle occorrenze, in cui è bene che tutto rimanga in famiglia, per il bene della stirpe, per la salvaguardia della specie, ma allo stesso tempo è anche l'affermazione di ogni più pregiudiziale giudizio su quella che sia oggi la tenuta della moderna famiglia, che tanti vogliono difendere come si difende ormai un'icona appassita, una religione esasperata, una idea che non ha più ragione di essere se non nella fantasia e nel ricordo di una resumazione storica di chi la impugna come qualcosa di immarcescibile. Ecco, fatta questa premessa, mi scrive un uomo che si trova ad attraversare un frangente molto facilmente riproducibile in tante esperienze personali, ma la cui soluzione in realtà mi sembra tra le più fantasiose e le più antiche e anche le più perniciose. Mi fermo un attimo in questa premessa per commentarla. Nel suo essere lapidare e concisa, in realtà è una sintesi abbastanza frequente di quello che accade a due persone quando stanno assieme. Ci hanno messo 25 anni per far scomparire la passione e l'interesse reciproco, diciamo che è una buona media. Di solito c'è chi gli accade, soprattutto nelle nuove generazioni, dopo 2 o 3 anni. Loro 25 anni hanno tenuto duro, poi non gli va più di tenere duro, nulla si tiene più duro, e quindi hanno deciso di passare alla stima. Pina Fantozzi dice al ragionier Ugo Fantozzi: caro Ugo, io ti stimo tantissimo. Quando lui domanda: ma tu mi ami? La stima è naturalmente il passaggio successivo, è l'eutanasia dell'amore, che però permette di mantenersi in una sorta di vita apparente anche quando alcune circostanze storiche, patrimoniali, familiari, di tenuta etica, di forma e facciata da mostrare al proprio contesto sociale non consiglia proprio a quella che è una rottura. Quindi lui è arrivato a questa sorta di reciproco e non detto patto di non belligeranza, però un problema: si sente attivo, leggo testuale, sia come interessi, che non vuol dire assolutamente nulla, sia dal punto di vista fisico-sessuale, che apre una voragine. Caro Nicoletti, ho 54 anni, una vita borghese, stipendio e lavoro sicuro e 2 figli sistemati che lavorano all'estero. Con mia moglie, dopo circa 25 anni, la passione è scomparsa e così anche l'interesse reciproco. Però ci stimiamo e siamo come una società di mutuo soccorso. Ho il problema di non avere problemi. Mi sento ancora attivo, sia come interessi che dal punto di vista fisico e sessuale. Ora, capita che ci vediamo spesso con mio cognato, fratello di mia moglie, e la moglie, più giovani di noi, e con i loro figli di 12 e 9 anni. I due cognati sono ai ferri corti. Spesso litigano anche davanti a noi. La loro vita è un inferno e stanno insieme per i figli piccoli. Mio cognato parla di imminente separazione e divorzio. Vengo al punto. Fra mia cognata e me è nato qualcosa. Dopo la sua situazione disastrata ci siamo incontrati per parlare di noi alcune volte, e le ultime due la situazione è andata oltre. È bellissima questa sospensione manzoniana, come la sventurata rispose, parlando della monaca di Monza, che si tirò sulla tonaca di fronte al drudo che la sedusse e dette ragione, uno dei passaggi più interessanti delle nostre liceali frequentazioni dei Promessi Sposi. La cognata produsse questa sorta di terremoto familiare, per cui si sono incontrati per parlare di loro alcune volte, e le ultime due volte la situazione è andata oltre. Ora, su questo andare oltre avrei preferito avere dei dettagli più precisi. Caro amico, è andata oltre in che maniera? Vi siete tenuti la mano e guardati negli occhi? Vi siete abbracciati, sconsolati, in una sorta di silenzio reciproco pregno di significati e di parole? Vi siete baciati? Vi siete baciati con la bocca chiusa o vi siete baciati con la lingua? Vi siete accarezzati? Siete andati oltre? Avete fatto un petting spinto? Siete arrivati alla consumazione di un atto sessuale vero e proprio? C'è stata, insomma, un'intima d'azione tra cognati? Perché cambia moltissimo. eccetto questa ultima soluzione, quella più drastica, insomma, avete fatto l'amore, tutte le altre sono facilmente risalibili. È una china sulla quale si può comunque riarrampicarsi pensando a un momento di solitudine, di comunanza, di problema vissuto, di tepori e torpori sin troppo assopiti che si risvegliano naturalmente. Insomma, potete dirvi, vabbè, è stato un momento, siamo lasciati andare, lasciamo perdere. Sì, però se il fattaccio c'è stato, è stato consumato e soprattutto se vi è dato gusto, si apre un problema. Ho trovato un nuovo stimolo, un nuovo interesse, un nuovo motivo. Per me l'interesse di una quarantenne, anche come maschio, mi rivitalizza. Ma è certo che il contorno pone degli ostacoli insormontabili. Lei dice che si sente protetta. Mi definisce la persona giusta, quella che avrebbe sempre voluto incontrare. Io sono appagato e mi pongo il problema se rinunciare al mio rassicurante tran tran o aprire le porte alla bufera in virtù di una nuova giovinezza. Tu che faresti? Io che farei? Ma innanzitutto mi terrei lontanissimo dalle cognate, sotto tutte le forme, sotto tutte le maniere, proprio, eviterei proprio di trovarmi solo con loro, senza persone nel raggio di almeno 15 metri. Perché? Perché si entra in dei rapporti molto pericolosi, molto perigliosi, che non riguardano più la coppia ma riguardano tutta l'estesa famiglia. È una sorta di rottura di un vincolo familiare, una sorta di doppio tradimento, non solo verso la persona che si tradisce in quanto proprio partner, ma verso anche l'altro familiare a cui comunque si scippa il partner. Vuoi tutte le motivazioni, lo trascura, lo tralascia, non dedica attenzione, però sono fatti i suoi. Ora, a me non vedo tragedie, sinceramente, sulla soglia delle vostre reciproche vite. Vedo piuttosto un accentuarsi e un moltiplicarsi della noia, perché sicuramente sia te che la cognatina farete di tutto per tenere nascosta la vostra relazione, che è un po' la vostra medicina, è il farmaco salvavita per tenere in piedi gli entrambi i matrimoni. Quindi vi darete una bottarella ogni tanto, giocando sul fatto che nessuno sospetta di voi, potete tranquillamente frequentarvi, uscire, andare assieme. Chi mai penserebbe che tra due cognati si scateni un atto focoso di passione amorosa? Quindi potrete andare avanti per quanto a voi piaccia, tenendo nascosta la cosa. Moglie e marito reciproci, i vostri partner non faranno caso a nulla, a tutto penseranno meno a quello, già saranno attrezzati per modo loro, quindi a loro non importerà nulla. Il problema è che alla fine vi troverete entrambi doppiamente sposati, quindi doppiamente vittime di quella noia, di quella consuetudine, di quella stanchezza di cui mi hai parlato all'inizio della tua lettera. E cosa fate a questo punto? Andrete sicuramente, ognuno per la sua strada, a cercare un nuovo diversivo. E quindi dovete doppiamente nascondervi, non soltanto da marito e moglie, ma anche da amante e reciproca amante. E quindi per voi la vita sarà complicatissima. Vi consiglierei di lasciare perdere, visto che ormai avete stappato la bottiglia, visto che ormai avete rotto il ghiaccio, datevi da fare ovunque, comunque, ma molto lontani da persone che abbiano con voi vincoli di sangue.